Hola, unas muy buenas tardes a todas las personas a la escucha. Aquí Radio Blackout desde Torino, en Italia. Nuestra radio es una radio completamente autogestionada que sigue en antena desde 1999, luchando contra capitalismo, racismo, contra las cárceles, contra todo tipo de opresión. Nos sumamos con placer a este cadenazo en solidaridad con Mónica Caballero en este día, el 28 de marzo, que para nosotros es un día muy importante, señalado por su dolor, porque hoy es el 28º aniversario de la muerte por suicidio en la cárcel de nuestro compañero Eduardo Massari, seguido 3 meses y medio más tarde por su compañera de lucha y de vida, nuestra querida amiga Soledad Rosa. Soledad también se quitó la vida en régimen de detención el 11 de julio del mismo año. Hoy hemos preparado un programa bastante largo con diferentes audios. Van a ser audios en italiano. Mano a mano vamos a describir cada contribución, cada audio. Entonces vamos allá. Una buena escucha a todas y todos. Y libertà per tutte e tutti, libertà per Monica, libertà per Alfredo Cospito, per Anna Beniamino, libertà per Juan Sorroche e per tutte le nostre compagne, i nostri compagni e per tutti e tutte le detenute del mondo. Il monologo di questo pane non ne mangiavo più è stato fatto nel 2019 all'interno delle mobilitazioni contro la chiusura della S2 dell'Aquila, il regime di alta sicurezza delle prigioni, in questo caso delle prigioni femminili, e portato avanti in particolare da due compagne, una Nia Beniamino, inquisita durante l'operazione Scriptamanent, e l'altra invece da Silvia, arrestata durante lo sgombro dell'asilo per il processo Scintilla. E questo... In questa sezione vi sono solo detenute islamiche. Il potere consciamente non distingue, anzi accomuna i nemici della società. Fa di tutta l'erba un fascio per creare confusione e smussare le differenze. Ogni attacco al sistema è un atto di terrorismo, ma il nostro orizzonte è la libertà. È ben diverso da un regime teocratico. Non mi lascio ingannare. Qui dentro siamo tutte vittime. Chiunque intraprende una lotta è perché si sente attaccato, umiliato, depredato del senso della vita. Hanno fatto dell'esistenza un perpetuo terrore. Ottobre 2013. 368 persone muoiono affogate in mezzo al mare in seguito al naufragio di una nave a largo di Lampedusa. Sorte comune a decine di migliaia di migranti in fuga dall'Africa e dall'Asia. Scontri e morti sulla rotta balcanica a Ventimiglia, lassù al Monginevro. La tragica fuga da una terra invivibile ad una che non li vuole, gelosa delle proprie ricchezze che si difende a suon di muri e centri d'espulsione. È una strage senza fine e loro ne sono i mandanti, coloro che hanno bisogno di queste carceri. Sono loro i soli terroristi. Era il 2008 quando scoppia la crisi economica. Una crisi permette la rapida accelerazione dei processi di trasformazione capitalisti, il passaggio forzato al capitalismo finanziario e digitale. I nuovi padroni del mondo si arricchiscono su internet mentre divorano intere terre. Land grabbing lo chiamano, ma è il solito imperialismo. L'acqua viene deviata dai villaggi ai siti di produzione. Le terre inaridiscono, la gente si accalca nelle città. Violenze, guerra civile, guerra! Un copione tristemente logoro. E la fuga per la dignità, per la vita. Non è terrorismo questo? È sempre 2008 che saquiscono le leggi liberticide dei pacchetti sicurezza e una più di tutte risulta immonda, il reato di clandestinità. Punire un essere umano per non avere i giusti documenti, sono leggi razziali che si accompagnano a leggi fasciste. La propaganda alimenta il clima d'odio, i fascisti riemergono dalle fogne, ma solo gli antifascisti ne pagano il prezzo della repressione. Dal 2008 non hanno fatto che aumentare le diseguaglianze e la ferocia repressiva. La paura verso l'immigrato acceca l'obiettivo verso il vero nemico, i capitalisti. Nel frattempo, la frenesia dell'opulenza virtuale ha trasformato tutte noi e le nostre città in merce. Tutto è in svendita. Come si può rimanere indifferenti? Come si fa a restare inermi quando tremano le mani dalla rabbia? Non vogliamo più lacrime sul sangue versato, ma risa di gioia e di vendetta. Ho lottato contro tutto questo ed è per questo che sono qui. E se credevano di piegarmi, mi troveranno ancora più forte, sicura delle mie idee, fiera delle mie azioni, vicina alle mie compagne. Mi hanno rinchiusa in questa cella per farmi sparire. E con me l'idea è la pratica insurrezionale. Hanno paura di chi si organizza al di fuori delle loro modalità. Sono terrorizzati dalla costruzione di un'alternativa allo Stato, da una socialità diversa, dal libero pensiero. Tremano nel veder nascere rapporti liberi dalle logiche di gerarchia e mercificazione. Odiano chi agisce, ed è per questo che ci chiamano terroristi. Ma chi affama i popoli? Chi sta avvelenando la terra? Chi sono coloro che si sentono in diritto di svendere le nostre vite? Chi alimenta l'odio, il razzismo e l'insicurezza? Sono loro, loro che hanno i soldi, il potere, l'informazione e le divise. Sono loro i nemici dell'umanità. Ho solo 4 libri e 7 vestiti. Un libro ogni 2 ricambi circa. Devo cambiarmi poco, leggere in fretta. Ho tempo, isolamento continuo, niente colloqui, niente corrispondenza, una sola ora d'aria, una sola ora di luce. Senza aria né luce anche le piante muoiono. È un trattamento così disumano che non si concerne neppure ai vegetali. Ci vogliono inanimate, come le pietre, come queste mura. E queste maledette guardie sono peggio dei topi. Entrano in qualsiasi momento. Fuori, perquisizione! E vi è setacciare questa maledetta cella. Lo fanno solo per infastidirmi. È una provocazione bella e buona. Vogliono umiliarmi. Le odio le loro maledette mani quando mi perquisiscono. Mi sento oltraggiata. Mi viene da staccargli le dita a morsi. Vermi! Quale lavoro più infame se non quello del carceriere? L'isolamento prolungato è una tortura, è deumanizzante, è lo stillicidio metodico e silenzioso della personalità. Vogliono annullarmi, cercano di annichilirmi. Mi hanno tolto la penna per isolarmi dal fuori, mi privano della socialità per isolarmi dal dentro, mi fanno i processi in videoconferenza per isolarmi dalla giustizia. Non ho più diritto a vedere nessuno, ma una persona che non si riflette di un'altra è una persona che non esiste. Ma non ce la faranno con me, no. Non devono più avere l'occasione di farlo. Questa maledetta sezione deve essere chiusa e tutte le prigioni andare a fuoco. E con esse le fondamenta della società carceraria. Fuoco! Fuoco! Fuoco alle galere! Noi oggi ci riprendiamo la nostra dignità, ci riprendiamo l'identità che ci viene negata e lo facciamo a modo nostro, lottando per sentirci vive. Preferiamo essere partigiani anziché vittime. Da questo momento, da questa infame sezione, noi ci rifiutiamo di continuare a vivere così. Noi ci rifiutiamo di sopravvivere in questo luogo inumano. Noi rifiutiamo il vostro rancio. Noi di questo pane non ne mangeremo più. En lo que sigue escucharemos una entrevista con Marco Nocente, autor del libro Ya no es la cárcel de Antán. Los testimonios y cartas de los presos en lucha recogidos en esta obra devuelven las oportunidades y dificultades de resistir en prisión hoy en día. En un lugar de poder especializado en recompensar y castigar, donde el prisionero se encuentra cada vez más aislado, a detrimento de cualquier forma de solidaridad que se pueda instaurar. En estos contextos, los presos deben lidiar con lógicas antiguas y nuevas del poder penitenciario que no solo se transmiten desde arriba, sino que a menudo se reproducen entre ellos mismos. Allora, come stavamo dicendo prima, oggi parleremo con Marco Nocente, che presenterà il suo libro Non è più il carcere di una volta, lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga. Marco, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutte e tutti. Ciao Marco. Vabbè, allora, raccontaci un po', magari appunto due parole su Olga, sul collettivo, sul progetto, su ciò che porta avanti, e poi raccontaci del tuo libro. Benissimo, allora grazie mille comunque per l'invito, saluto tutte le persone, soprattutto appunto quelle incarcerate che magari riescono a sentirci proprio dalla radio, visto anche il tipo di presentazione che faccio, sicuramente ho piacere a condividere appunto la presentazione di questo libro, quindi prima i saluti, ecco. E poi appunto prima di presentare il libro giustamente bisogna parlare del collettivo, che poi è il collettivo che ha reso possibile questo libro. Sebbene appunto io faccia il ricercatore nella vita e ho deciso appunto di poi scrivere questo libro e di farlo anche nell'ambito grazie all'ambito accademico, diciamo, non sarebbe appunto possibile il libro senza il collettivo. Appunto parliamo del collettivo Olga, un collettivo di Milano che esiste da ormai 20 anni. Il primo opuscolo che è stato pubblicato da Olga del 2006, e appunto il collettivo esiste dal 2005, e Olga è un collettivo appunto che sostiene, fa da megafono, porta avanti appunto le lotte di tutti quei detenuti che provano un po', diciamo, ad alzare la testa anche in un contesto come quello del carcere di questi ultimi anni, dove appunto la repressione è particolarmente dura e dove apparentemente sembra che non ci siano grandi mobilitazioni, sebbene appunto abbiamo visto benissimo durante il Covid come questo sia assolutamente falso, e come anche prima di quel momento lì ci sono sempre stati, perché il carcere è proprio un posto dove la tensione è sempre dietro l'angolo e le ragioni per protestare ci sono alla grande, solo che appunto è un mondo complesso e quindi questa conflittualità non sempre si canalizza appunto verso il conflitto appunto. Olga nasce proprio appunto per sostenere queste lotte, quindi per unire il dentro con il fuori, ma soprattutto unire il dentro con il dentro, nel senso fare unire insomma le lotte di chi vive magari in spazi differenti, sempre carcerari, e che poi appunto ritrova nelle sue lotte degli altri, le lotte che fanno loro stessi. Questo anche in altre presentazioni che mi è capitato di fare, mi è capitato proprio di incontrare alcuni compagni che magari scrivevano proprio ad Olga e che hanno avuto modo appunto di trovare nelle lettere degli altri anche un po' la forza per lottare, portare avanti le loro lotte. E noi facciamo un lavoro territoriale nella città di Milano e poi nelle carceri anche vicino, dove abbiamo avuto modo in varie situazioni, anche attraverso campagne nazionali, di appunto portare avanti, di fare un lavoro come può essere quello dei presidi, quello appunto dell'aiuto appunto anche minuto nei riguardi dei detenuti, perché appunto spesso chi finisce in carcere sono anche persone che hanno bisogno di un aiuto di qualunque tipo, dai visto avere la giacca per l'inverno a qualunque altra cosa, insomma, attraverso i pacchi. Cosa che peraltro sicuramente merita essere citato, è sempre più questa solidarietà, diciamo, sfizia, è sempre più messa in difficoltà, perché con le varie circolari e ordinanze che si sono susseguite negli anni, se io guardo indietro dagli anni, appunto, che da quando faccio parte del collettivo ad oggi, sempre più è difficile inviare un pacco perché non si è familiare, sempre più, insomma, la solidarietà dall'esterno, se non si è un familiare canonico, insomma, è sempre più difficile portarla avanti. Il lavoro che facciamo con Olga è anche un lavoro di, appunto, quello di scrivere un opuscolo. Adesso, tra l'altro, stiamo per uscire con il nuovo opuscolo, l'ultimo uscito a dicembre. Prima avevamo una pubblicazione mensile, adesso i tempi si sono un po' più dipanati, però continuiamo, appunto, a lavorarci. E quello che contiene questo opuscolo sono le lettere dei detenuti che ci scrivono, quindi, appunto, proprio per dare seguito a quello che dicevo prima del lavoro che facciamo. L'altra metà dell'opuscolo è composta da notizie, diciamo, di controinformazioni, proprio perché sempre in carcere, come ci scriveva anche un detenuto questa settimana che ci ha scritto, quando ci ha scritto ci diceva: qua purtroppo le notizie arrivano solo dalla televisione, spesso magari non si ha la possibilità, appunto, di accedere ad altri tipi di informazione, come può essere per esempio questa radio. E a un certo punto, questo qua, appunto, è il lavoro che facciamo, poi continuiamo a portarlo avanti. Ed è proprio allora, un'altra cosa da dire, appunto, proprio per spiegare anche che cosa fa con chi vogliamo avere a che fare, appunto, noi come Olga, dicevo, tutti quei detenuti in lotta, però, appunto, ci tengo a precisare che non abbiamo mai voluto fare una differenza tra i detenuti politici o i detenuti cosiddetti sociali, o qualsivoglia sia il termine che si voglia usare, ma, appunto, noi vogliamo avere a che fare con tutti quei detenuti che semplicemente portano avanti delle lotte, subiscono delle ingiustizie, portano avanti delle denunce, che in qualche modo lottano, appunto, contro il carcere, ma, appunto, senza fare dei detenuti di serie A e dei detenuti di serie B, proprio perché è proprio contro quella differenziazione che, appunto, mette gli uni con gli altri, appunto, rende anche più debole le possibili resistenze che si possono creare, e, appunto, questa cosa la vogliamo evitare. La scelta di fare un lavoro sulle lettere dal carcere, appunto, viene invece da varie ragioni. Sicuramente ho scelto di fare questo libro perché, per prima cosa, io non sono mai stato detenuto nella vita, conosco tantissime persone, amici, compagni che dentro stanno, che possono anche raccontare, appunto, mi possono anche raccontare tutte le storie che hanno vissuto, però allo stesso tempo questa cosa, secondo me, non è sufficiente per poter fare un racconto di, diciamo, un'antropologia del detenuto, raccontare la vita quotidiana dei detenuti, perché per me parlare per gli altri è una questione molto delicata, e quindi l'unica cosa che ho potuto fare, semmai, è stata quella di prendere queste lettere, appunto, pubblicate dal 2006 ad oggi, quindi un migliaio di lettere, e cercare di partire proprio da quelle lettere per costruire un discorso coerente. Potrebbe essere che magari anche un po' noioso come discorso da fare, diciamo, metodologico, accademichese, se si vuole, però secondo me è importante, perché anche in qualunque lavoro che possiamo fare noi come compagni, in qualunque ambito, spesso, appunto, ho voluto, appunto, sottolineare la delicatezza rispetto a certi temi, perché bisogna avere, come dire, coerenza tra i mezzi e i fini, per certi versi, quindi, anzi, direi in tutti i versi. Insomma, ho cercato di fare un'analisi delle lettere, e principalmente tenendo a mente anche un po' il percorso di Olga e un po' le domande che abbiamo fatto negli anni, e alla fine ho delineato due grandi temi che non sono esaustivi sul carcere, e magari dopo diciamo due parole anche su quello di cui, appunto, non mi sono occupato, però ho scelto di focalizzarmi su due temi principali. Uno è il carcere duro, quindi da discorsi e spazi, diciamo, che caratterizzano il carcere duro, quindi dal diritto penale del nemico ai discorsi che si fanno, appunto, intorno alla mostrificazione di tutte quelle persone che poi, appunto, dopo finiscono magari nei vari 41 bis di alta sicurezza, e appunto poi i regimi, quindi cosa succede poi e come leggere questo tipo di regime di circuiti carcerari. L'altro ambito è invece la premialità, o meglio, osservo come la rieducazione venga raccontata, ma come di fatto poi i detenuti la ripresentano come effettivamente cosa da leggere come premialità, cioè come in qualche modo c'è un carcere morbido, che non è quello duro, che diciamo è la carota che viene preferita al bastone, che serve allo stesso modo per tenere buoni detenuti e farlo in maniera utilitaristica, sia spesso per il carcere sia anche per il detenuto, per fare in modo che sia il detenuto stesso a riprodurre l'ordine detentivo, proprio perché si preferisce il premio piuttosto che magari cercare di prendersi, conquistarsi una libertà. E adesso magari, se c'è tempo, posso approfondire meglio questi due temi. Certo. Assolutamente, certo. Perfetto. Benissimo, grazie. Allora, se vogliamo parlare del carcere, prima di parlare di carcere duro e carcere morbido, diciamo, anche se sempre di carcere si tratta, bisogna fare un discorso proprio sulla differenziazione. È fin dagli anni 70 che si è scritto, che si è raccontato appunto di questa logica della differenziazione utile, funzionale al carcere, inizialmente solo per dividere i detenuti da quelli buoni da quelli cattivi, ma poi c'è, almeno quello che si denota dalle lettere del carcere, un approfondimento sempre maggiore di questo tipo di logica. È un po' come se vedessimo quelle logiche di quegli anni nelle lettere di Olga, approfondite, che non riguardano più nemmeno solo i detenuti politici o i detenuti più pericolosi, nei detenuti normali, ma diciamo in tutti i circuiti, tutti i regimi si trova sempre questa logica trainante della differenziazione. E che cosa produce questa differenziazione? Tra tutto, sempre meno solidarietà e sempre più individualizzazione tra i detenuti. Hai voglia un attimo di spiegarci che cosa intendiamo con differenziazione nelle carceri italiane, specialmente attraverso, esatto, le riforme degli anni 80 in poi? Certo, lo faccio volentieri. Allora, possiamo parlare per esempio se vogliamo parlare del carcere duro, abbiamo visto che dalle carceri speciali, che furono nel 77 appunto imposte proprio per dividere tutta quella componente di detenuti in lotta, oggi ci ritroviamo il 41 bis come regime e poi i circuiti dell'alta sicurezza. In Italia abbiamo l'alta sicurezza 1, l'alta sicurezza 2, l'alta sicurezza 3. Nella S1, chiamato così, finiscono spesso i detenuti che vengono dal 41 bis, e poi adesso gli avvocati all'ascolto mi perdoneranno per andare molto rapido su questo, ma preferisco poi parlare di effettivamente come si tasta la differenziazione poi in carcere. In S1 si trovano quei detenuti che vengono dal 41 bis, spesso sono associati a reati di tipo mafioso, così come lo sono anche quelli della S3, però spesso sono legati allo spaccio internazionale, a tutt'altro tipo di reato, che non sono quelli di sangue. E poi c'è la S2, che è per i politici e i religiosi, spesso divisi, perché sono all'interno delle S2 c'è una differenziazione informale, tra virgolette, nel senso che non è che proprio sta scritta nelle circolari, dove però di fatto si dividono i detenuti politici, quindi legati al terrorismo, quindi l'articolo 270, politici o religiosi appunto. E questa è una differenza interessante perché uno ha diviso completamente appunto i detenuti da comuni, da quelli appunto che si potrebbero dire sono quelli più pericolosi, che in qualche modo io utilizzo il discorso del diritto penale del nemico, che è quel diritto che dice sostanzialmente che ci sono c'è un diritto che vale per i cittadini e poi c'è un diritto che invece vale per il nemico. Ed effettivamente a giudicare dal tipo di repressione che viene messa in atto, ma non solo il tipo di repressione dura, fisica, ma anche dalla sofisticazione di un certo tipo di isolamento programmato che caratterizza sia il 41 bis sia l'alta sicurezza, insomma abbiamo proprio, riusciamo a capire un po' la cifra di quello che è la differenziazione oggi. E adesso entro nel merito per esempio del 41 bis, abbiamo, almeno nel libro descrivo come in qualche modo il 41 bis sia stata la normalizzazione di un'emergenza. E curiosità però il 41 bis è pensato proprio nel 92 per fare i conti con il momento più avversivo dell'azione appunto della mafia presente in Italia, il fenomeno sia venuto meno, appunto, almeno l'eversione, perché poi a caso di cronaca recente ci dicono benissimo il contrario, però l'eversione sia venuta meno, ma questo 41 bis si sia allargato sia per categoria di reato sia per numero dei detenuti, perché se nel 92 avevamo circa 400 detenuti adesso siamo quasi ad 800 in questo anno. E allo stesso tempo il tipo di reati è cambiato, il caso di Cospito, ma così come Nadia Desdemona Alioce e via dicendo, sono solo alcuni altri casi che fanno vedere come in qualche modo questa cosa non era nemmeno più relegata solo alla questione mafiosa. E in qualche modo ci fa capire le cattive intenzioni, appunto, che aveva lo Stato prima di quando aveva pensato questo regime che peraltro era prima nasce come decreto legge che poi veniva rinnovato di volta in volta e poi proprio nel 2002 è diventato legge. Altra cosa, l'alta sicurezza, adesso per questo cito solo la S2 per esempio, e le S2 che abbiamo visto attraverso le lettere quando ci scrivevano detenuti accusati di essere terroristi islamici, per esempio, e come intorno a tutto quel racconto intorno al terrorismo islamico non ci fosse, almeno in Italia, non c'è stata tutta l'alta sicurezza. Io la descrivo raccontando un passaggio, quel circuito, passando dall'elevato indice di vigilanza all'alta sicurezza, era il regime che precedeva l'alta sicurezza, che ha portato da essere un unico circuito a dividere in tre, quindi S1, S2, S3 e dividere la S2 in due, quindi appunto una differenziazione di un certo tipo, senza che ci fosse uno specifico pericolo imminente nei confronti dell'ordine pubblico, ecco, in quegli anni lì, no, il 2015. Eppure appunto per quello che riguarda il terrorismo islamico, per esempio, è stato fatto tutto anche uno studio, riporto nel libro per esempio l'analisi dei livelli di radicalizzazione del detenuto, tutta una serie di cose, per esempio, giusto per fare un esempio, tutta una serie di cose che, diciamo, osservandole con la lente, parlo sia dell'alta sicurezza sia del 41 bis, sono tutte cose che osservandole attraverso la lente del diritto penale del nemico, è un po' come se in qualche modo lo studio, l'isolamento programmato, quando parliamo di 41 bis parliamo di un regime proprio che attraverso le sue circolari pianifica ogni singolo, proprio gli aspetti più minuti della vita quotidiana del detenuto, come quasi in un laboratorio, e sembra un po' come se in qualche modo il carcere duro si è pensato non tanto più per quello che poi il detenuto ha fatto realmente in termini di reato, quanto più per quello che la persona è, ed è questo un po' uno snodo anche che, appunto, un tipo di sviluppo che di fatto poi il sistema penale fa e sviluppa non solo attraverso il meccanismo, diciamo, carcerario, perché questo spostamento, diciamo, dal reato al soggetto lo trovo anche in altri tipi di detenzione. Io penso alle case di lavoro, dove appunto esiste questa la condizione di essere pericoloso socialmente e questa pericolosità sociale che fa sì che in qualche modo è come se va bene, hai fatto un determinato reato, però dopodiché, o determinati reati, dopodiché hai la pericolosità sociale e da quel momento lì in poi tu devi provarmi che sei un'altra persona, ed è una cosa molto molto pericolosa, che è uno sviluppo, appunto, di questo uno sviluppo che il carcere, appunto, ha avuto, il carcere e altre forme detentive, diciamo, ha avuto negli anni. L'altro ambito che descrivo, che invece è il carcere più morbido, anche se è sempre brutto dire la parola morbido, è invece quello della premialità. Ed è come se in un periodo, appunto, dove a differenza di quelli famosi anni 70, parliamo di anni, appunto, quando parlo di anni 70 parlo di anni in cui fino al 75 l'ultima riforma carceraria era una riforma fascista, dove i detenuti si sono conquistati attraverso le loro rotte le libertà che che hanno, ma anche appunto di nuovo le cose più piccole che un detenuto oggi si ritrova in cella, spesso ci fa questo discorso, lo faceva spesso Sant'Elottar Nicola, che va appunto guarda le cose più piccole che hai in carcere, e quelle cose le hai appunto in carcere, perché ci sono state delle lotte di idee, c'è sempre una lotta dietro al singolo oggetto che una persona ha in carcere. Quello che si vede dal carcere morbido, dal carcere soft, è come se in questi anni i diritti conquistati dalla riforma carceraria siano stati smantellati uno a uno e al massimo ridati, ma al massimo riconcessi, ecco, su concessioni, richiesti individualmente e concessi individualmente sulla base del merito. La cosa più chiara per capire questa cosa qui è, perché poi questa è una logica che è generalizzabile veramente un po' in tutto il carcere, che è appunto quello della buona condotta, l'introduzione per esempio appunto dei benefici carcerari, cioè la possibilità di uscire 45 giorni prima dal carcere ogni 6 mesi, che alla fine dell'anno sono 90 giorni che possono essere dati ai detenuti nel momento in cui loro hanno una valutazione positiva da parte dell'equipe del carcere, è uno per esempio dei meccanismi più funzionali, che funzionano effettivamente di più per fare preferire, come tante lettere appunto poi ci scrivono dal carcere, per fare riprodurre l'ordine detentivo, far tenere i detenuti buoni in qualche modo, però allo stesso tempo però appunto individualizzandone sempre di più il percorso, creando anche un po' un senso di rassegnazione tra i detenuti, come dire, da un lato preferire, come ci scrivevano, il pilota automatico, quindi aprire a, per esempio, tutto l'ambito di quello che sono gli psicofarmaci in carcere, preferire la terapia per far passare il tempo, per non avere problemi, in una situazione dove appunto questo tipo di lettura la faccio in contrapposizione al racconto che si fa dell'educazione, della rieducazione in carcere, che oltre ad essere una parolaccia, e viene anche tradita sui fatti, proprio perché in verità questo tutto quello che riguarda il trattamento e la rieducazione per il detenuto vengono vissute, e anche per gli operatori, vengono vissute in maniera assolutamente utilitaristica. Io faccio un esempio sempre, ogni volta che presento una persona con cui ho corrispondente che ci scrive dal carcere di Volterra, che ci dice che poi non è neanche una questione di, ovviamente non è una questione di rieducazione, perché anche i corsi stessi, per come sono pensati, non sono funzionali a un progredimento del proprio percorso della persona detenuta, laddove ci sono tra l'altro corsi o opportunità, perché spesso in carcere si dice sì, ci sono i corsi, ci sono le cose, poi spesso in molte carceri non c'è proprio nulla. Il detenuto in questione che mi scriveva mi diceva: guarda che ci hanno fatto fare un corso sulla sicurezza, l'educatrice ha scoperto che quasi nessuno aveva passato il corso, ha detto no, allora adesso lo rifacciamo tutti e lo rifacciamo con il foglio sbagliato a fianco, così almeno rispondete giusto, perché tanto alla fine l'importante è che si facciano le cose, non tanto che si facciano bene, che si facciano, che abbiano tutti questo certificato per la sicurezza. Poi lui ironicamente diceva, e poi vabbè, chiedetevi perché in Italia ci sono le morti sul lavoro. Ma al di là di queste battute appunto che lasciamo a parte, questa persona è una persona che ci scrive che non può iscriversi all'università, è iscritta per la terza volta al diploma, al corso, diciamo, per avere il diploma di ragioneria, proprio perché non può fare nient'altro che quello. E qua si vede appunto il senso, che è proprio quello esclusivamente utilitario di potersi fare in carcere. E poi, oltre a questo, a questo discorso appunto, che ovviamente si vede molto chiaramente come non ci sia per niente spazio appunto né per fare una critica né per fare un percorso anche che sia vagamente utile, quindi di nuovo rimettiamo in discussione la famosa funzione del carcere, che ovviamente tradisce sempre le aspettative che si pone. Tra queste cose per quanto riguarda il carcere soft, diciamo, e questo meccanismo, diciamo, premiale volto a dare appunto che si basa sui benefici carcerari, c'è anche il fatto che, per esempio, una delle cose che caratterizzano il fatto che tu ti comporti bene o male in carcere è il fatto che magari sei a disposizione della direzione, a disposizione del tipo Hai voglia di scrivermi ogni tanto nelle domandine, che le domandine sono tutte quelle istanze che si fanno al direttore del carcere per richiedere praticamente tutto all'interno del carcere. Quindi, tra l'altro, sottolineare la parola domandina, ovviamente gergo è molto infantile, infantilizzante del carcere, cosa appunto tradizionale appunto del trattamento carcerario. Insomma, se tu l'agente di turno chiede al detenuto: se tu puoi scrivermi una domandina e mi dici dove, per esempio, Tizio e Caio nascondono il fumo, nascondono qualcosa o combinano qualcosa di sbagliato, tu me lo scrivi nella domandina, noi dopo, il giorno dopo, facciamo la perquisizione e bene così. Ecco, queste sono condotte che vengono premiate, tra l'altro sempre in un'ottica di infantilizzazione anche a scuola, almeno. Di solito così si diceva, di fare la spia in carcere, si dice che fai l'infame, però come si vede, come vedete, c'è sempre questo ritorno di questa infantilizzazione nelle stesse, non solo nelle parole, ma proprio nelle pratiche stesse che caratterizzano il carcere. Un'ultima cosa da raccontare, che riguarda tutto quello che non ho considerato magari nella ricerca, ma se avete, ma io, stavate dicendo qualcosa. Io prima volevo chiederti se avevi voglia di spendere due parole giusto sulla questione del lavoro, che tra l'altro anche lì apre il vaso di Pandora nella dinamica della premialità. Certo, il lavoro. Beh, il lavoro è una di quelle cose che sono potenzialmente sempre contese all'interno del carcere, perché il carcere è fatto in una maniera tale che si ha a disposizione poco da dare ai detenuti, e giustamente questa cosa qua è di nuovo funzionale proprio alla premialità, perché spesso il lavoro viene proprio dato. In carcere esistono, per esempio, all'interno del lavoro le liste del lavoro, quindi a proposito di gergo infantilizzante, c'è lo spesino, c'è lo scopino. Ci sono appunto questi lavori di manutenzione del carcere che si fanno, oppure il portavitto, che vengono retribuite, ovviamente vengono pagati pochissimo. C'è una graduatoria per i detenuti, ma spesso questa graduatoria viene disattesa proprio per il principio che vi dicevo prima, che spesso appunto vale la premialità, e questa premialità come vale, tra l'altro, per chi ci ascolta magari fuori dal carcere, per immaginarsi, la premialità è un po' lo specchio della meritocrazia fuori dal carcere, che come sappiamo bene tutti, non è che qualcosa che funziona veramente, spesso si basa su delle preferenze, si basa su delle questioni che, appunto, come dicevo prima, come l'infame del carcere di cui raccontavo prima. Certo, una cosa interessante da dire è che non solamente la regola è veramente terribile, in questo caso la regola dell'infamia, della premialità, è fuori quella della meritocrazia, ma anche questa, che è un'ideologia criticabile, terribile, viene pure disattesa. Quindi non solamente c'è una critica che è necessario fare al modello, ma anche alla maniera in cui non viene espletato. Quindi ci troviamo a dover giocare su un doppio livello: quella che è la verità presentata del carcere, quella di quel protocollo, di quel tipo di indirizzo, e poi, che già appunto è un modello rispetto a cui bisogna opporsi, e poi c'è la verità di come viene attuato. Quindi bisogna sempre tenere, purtroppo, un doppio livello: quello del discorso e poi quello dell'attuazione. Esatto, sì, spesso il carcere, per tantissime dinamiche che si caratterizzano, anche il fuori in qualche modo illumina molto bene, le illumina molto bene. Una cosa sempre legata di nuovo alla premialità e sempre legata al lavoro è invece proprio per esempio la differenza di trattamento che c'è tra le varie carceri, che in realtà anche questo è un metodo per cui in qualche modo rende preferibile poi stare comunque nell'ordine consentito dal carcere. Perché, vi faccio un esempio, esistono carceri come il carcere di Bollate, diciamo, almeno annoverato ed effettivamente servito più di in questi anni per un po' raccontare la rieducazione che funziona bene, no? All'interno del carcere, con effettivamente tassi di recidiva, per esempio, più bassi, eccetera, eccetera. Però io ci tengo proprio a fare questo esempio qua, non tanto per farci complimenti al carcere di Bollate, ma proprio perché il carcere di Bollate è l'emblema di come funziona la premialità, perché nella misura in cui io scelgo di prendere tutti quei detenuti che tendenzialmente si sono comportati bene, li metto in un carcere dove tendenzialmente gli offro molte più opportunità lavorative, come cosa vuoi che succeda? Per forza che la recidiva è molto più bassa, perché tendenzialmente i detenuti che finiscono lì saranno anche tendenzialmente più seguiti, magari avranno pure la possibilità di fare i domiciliari prima della fine della detenzione, quindi di uscire, comunque hanno un sostegno da fuori. C'è una sproporzione delle risorse che è assolutamente funzionale a fare sì che magari se sei in un carcere di merda tu preferisci preferiresti finire a Bollate, perché almeno dici vabbè, così almeno esco, così non incontro troppi incidenti, perché spesso una persona perde i giorni di uscita anticipata per il sovraffollamento che c'è nel carcere, per il casino che c'è, per piccole cose che possono succedere che poi fanno sì che quella cosa te la perdi. E ci tengo a sottolineare come appunto il fatto che ci sia un carcere buono e uno cattivo serve proprio assolutamente funzionale al mantenimento dell'ordine. A Opera, il carcere milanese appunto, dove abbiamo peraltro c'è stato un presidio proprio domenica scorsa, proprio per rilanciare peraltro infatti, magari se vuoi spendere poi anche proprio due parole al volo sulla mobilitazione che c'è in corso, sì, a Milano per rilanciare la lotta di Alfredo, di tutti coloro che l'hanno portata avanti contro il 41 all'ergastolo stativo, raccontarci anche come è andato il presidio. Va bene, sì, adesso vi dico subito. Però appunto Opera, abbiamo questa situazione dove hai due edifici. In uno hai i detenuti con il trattamento avanzato, tendenzialmente con condizioni leggermente migliori, l'altro dove hai l'alta sicurezza, e proprio dove c'è l'alta sicurezza anche i detenuti comuni in articolo 32, diciamo quelli sottoposti a un regime diciamo più deprivativo e diciamo lo chiamano il punitivo, quindi la dice già lunga su come viene organizzato appunto, con gli spazi vengono organizzati e come siano pregni di queste logiche come quelli della premialità. Per chiudere giusto il discorso sul lavoro, l'ultima cosa che volevo dire considerando sia Bollate un carcere insomma ad alto dove appunto ci sono molte possibilità lavorative, per esempio, e si vedono delle dinamiche che sono curiose anche da questo punto di vista. Mi parlavano appunto delle persone, una persona che è tuttora in carcere a Bollate mi diceva: guarda che qua spesso i detenuti si fanno la gara per trovare il lavoro migliore, perché uno magari va a parlare con un educatore, l'educatore gli dice vai a fare questo lavoro qui, quest'altro torna e il suo compagno di cella scopre che questo qua gli ha proposto un lavoro, e questi si mettono a litigare magari sul fatto che una persona gli ha dato un lavoro che era migliore dell'altro, eccetera. E come sia appunto dove c'è tanto lavoro o dove invece non c'è proprio lavoro e bisogna fare la gara per avere quel singolo posto di lavoro, questo meccanismo riesca sempre a riprodurre sempre di più una individualizzazione sempre più ostinata. Ecco, questo era giusto per chiudere il discorso. Grazie. E appunto adesso se vuoi farci due parole, sì, sulla mobilitazione in corso a Milano, su cosa sta succedendo, sul presidio che avete fatto a Opera, com'è andato? Beh, allora, sicuramente appunto proprio perché in vista della possibile proroga nei riguardi di Alfredo per il 41 bis, a seguito di quelle che sono state poi la repressione di tutte quelle giornate di mobilitazioni veramente importanti di un paio di anni fa, che tra l'altro avevano allargato tanto il discorso sia del carcere sia del 41 bis. Peraltro noi con Olga, prima della mobilitazione di Alfredo, mi ricordo che c'era questa campagna che si chiamava Pagine contro la tortura, dove si parlava dell'impossibilità di ricevere i libri, no, in 41 bis, che veniva appunto, era stato negato ai detenuti in 41 bis di ricevere i libri dall'esterno, e aveva un po' aperto anche grazie alle lotte di Nadia Desdemona Lioce, avevano un po' squarciato un po' il velo di questo regime tabù che fino a prima infatti non se ne poteva parlare, perché la guerra alla mafia diciamo è la guerra del bene contro il male, quindi è qualcosa di cui non se ne può parlare, però appunto abbiamo visto, grazie anche, soprattutto alle mobilitazioni in solidarietà ad Alfredo, grazie tra l'altro alla generosità. Tra l'altro, giusto per ricordarlo, il PM Scafi pochi giorni fa ha chiesto delle pene altissime per il corteo del 4 marzo, pene che vanno dai 6 e a 12 anni rotti, quindi esatto. Appunto, questa è una notizia degli ultimi giorni, delle conseguenze appunto del corteo del 4 marzo, che era un corteo che si era dato dopo che la Cassazione aveva dato un ennesimo no alla possibilità di Alfredo di uscire dal 41. Esatto, sì, volevo proprio passare da lì, nel senso che sono state sicuramente delle mobilitazioni molto importanti che hanno allargato molto il discorso sul carcere, il discorso sul 41 bis, hanno coinvolto molte persone che si sono mobilitate e che effettivamente sono state anche duramente represse, a maggior ragione per questa, a maggior ragione in vista di una possibile proroga, visti i tempi di guerra che corrono anche, se si vuole, dove appunto come in tutte le situazioni, laddove c'è guerra esterna, si vedono anche tutte quelle politiche poi a livello interno che ricalcano poi quell'andazzo, diventa sempre più importante sicuramente tenere alta l'attenzione di questi regimi, perché abbiamo visto su 41 bis che appunto non si tratta di niente di eccezionale, anzi è diventato qualcosa che è sempre più diventato normale, normalizzato, sempre più facilmente attuabile, e peraltro abbiamo visto proprio anche con le politiche del governo, perché ci sta anche sottolineare quello, che dei governi che si sono succeduti, ma in particolare effettivamente è stata data una grande stretta repressiva con i vari decreti di sicurezza del tempo, dove si è penalizzato veramente di tutto, qualunque tipo di pratica, e diventa sempre più importante allora sicuramente seguire queste mobilitazioni. Noi a Milano abbiamo presentato, abbiamo fatto una mini campagna, insomma abbiamo fatto varie iniziative in preparazione di questo presidio che c'è stato proprio domenica, abbiamo fatto delle presentazioni di libri prima, abbiamo presentato per esempio il libro di Claudio Cipriani, che testimone, diciamo che lo scrittore dell'esposto di quanto è successo a Modena, testimone della mattanza che c'è stata a Modena nel 2020, la repressione delle proteste che ci sono state in quel carcere proprio contro la chiusura dei colloqui, quello che sono stati poi quegli anni di chiusura totale che si vedono tuttora in carcere. E appunto, e poi abbiamo presentato anche il libro, i libri contenuti, insomma materiali intorno a tutto quello che è stata quella mobilitazione per Alfredo. Domenica c'è stata una bella presenza fuori dal carcere di Opera, ci sono stati ancora direi con più piacere, perché comunque è la cifra che dà il senso alle iniziative, una bella risposta dei detenuti che da fuori gridavano in diverse occasioni durante questo pomeriggio insieme, cosa importante, perché era importante essere lì, perché ci sono grandi trasformazioni in corso, molto probabilmente il 41 bis di Opera verrà chiuso perché c'è in corso questo processo di chiusura di diversi 41 bis, quasi dimezzamento del numero di 41 bis, per poi mettere più persone possibile in 41 bis nello stesso edificio. Infatti in Lombardia, infatti sì, in teoria dovrebbe essere il carcere di Vigeva, no? Il carcere previsto. Qua in Piemonte ad Alessandria i prigionieri della S2 sono stati spostati a Rossano, perché appunto ad Alessandria si vuole creare un'enorme sezione di 41 bis, e tra l'altro quello che dicevano, poi avevo sentito in un giornale radio, che c'è la volontà di fare anche una sottosezione severa, come ad esempio quello di Parma, dove poi nei fatti un prigioniero più importante viene messo con uno di un contesto distante, meno sotto i riflettori, e la socialità è ancora ridotta nel caso in cui sia possibile. Esatto, sì, esatto, perché non c'è limite all'isolamento. Infatti il 41 bis ha già previsto nella sua costituzione le aree riservate, banalmente, che sono appunto queste celle sotterranee, ancora più appunto più isolati, dove se già la socialità erano quattro persone, lì ti ritrovi appunto sempre più da solo. E dicevo, il carcere di Opera, che è anche il più grande, che insomma non è una notizia poco rilevante, perché comunque il carcere di Opera è il secondo carcere per 41 bis più grande in Italia, che appunto ospita diversi detenuti, che intorno al centinaio, credo, non voglio dire una fesseria, però appunto che verranno spostate presto, non vale capire quando. E poi allo stesso tempo un carcere che oltre appunto a recludere in 41 bis Marco Mezzasalma, comunque detenuto in 41 bis del Nuove Brigate Rosse, insomma un carcere da veramente tantissimi anni. Abbiamo anche la condizione, questa era la notizia appunto che ci sono poi arrivate tramite i familiari, tramite poi in realtà alcune notizie che girano anche, sono girate nei giornali, perché sono state fatte delle denunce proprio dagli avvocati dei detenuti, in un carcere di Opera dove non c'è l'acqua calda, non c'è stata l'acqua calda per tutto l'inverno, dove hanno limitato la possibilità di fare i colloqui di terze persone dall'arrivo diciamo della nuova direttrice. Insomma, un carcere che è sempre stato duro, perché guarda, non si sprecano i racconti di limitazioni ai pacchi, controlli alle familiari che andavano a fare le visite ai detenuti. Ricordiamo anche che tra l'altro è stato uno dei carceri dove la repressione si è data in modo più violento nel 2020, dopo che c'era stata la rivolta nel carcere di Opera, chi si trovava fuori in presidio sentiva da dentro urlare che erano stati massacrati di botte, gli era stata tolta l'acqua, gli erano state tolte le ciabatte, tutti i beni di prima necessità, e soprattutto il padiglione era rimasto al buio per qualche giorno. E anche nelle settimane successive, quando i solidali continuavano ad andare fuori dalle mura a chiedere come fosse la situazione, parlavano proprio di una repressione violentissima che si è data in mesi e mesi. Mm-hmm. Sì, è sempre stata un po' la cifra del carcere di Opera, che è sempre stata particolarmente punitiva, però si vede che ci tenevano ad avere ancora più isolamento, spostando per esempio 41 bis a Vigevano, perché effettivamente è una cosa che ci dicono spesso quando si parla con i familiari, ma anche con gli operatori che lavorano in carcere, se magari il carcere di Opera è duro, comunque è ancora a Milano, e avere un carcere a Milano, anche se appunto è il classico carcere che in realtà è a Opera, tra Milano e Opera in campagna, quindi con la possibilità di allargarsi, infatti penso che abbia finito ormai la costruzione del padiglione nuovo, perché appunto ho costruito addirittura un padiglione nuovo in questi anni. Questi carceri di campagna pensati grandi, che possono allargarsi, che sono anche un po' più isolati dal centro della città, però comunque sempre in città stanno, sono attraversati da volontari, dottori, medici, infermieri e quant'altro, che in qualche modo la notizia te la portano fuori. La nota da dire per esempio del carcere di Vigevano, ma così come lo sono tanti carceri, penso che tante carceri che si possono trovare anche in Lombardia, ma un po' in tutta Italia, carceri come il carcere di Cremona, sono carceri per detenuti proprio dimenticati, cioè se quello che di cui non parlo nel libro, per esempio, appunto, la condizione degli stranieri, la condizione di persone insomma che sono le ultime, di quelli che proprio nella premialità manco partecipano, perché sono esclusi dal consorzio, sono esclusi fin dall'inizio, sono esclusi e non è previsto per loro nulla e nessuno testimonia di quello che succede a loro, e quindi ti ritrovi effettivamente le persone che poi sono spesso quei delinquenti magari abituali, gente che fa dentro e fuori di continuo, in carcere appunto assolutamente lontane dall'occhio. E mettere sicuramente un 41 bis a Vigevano mi sembra proprio di andare a seguito anche a questo tipo di urgenza, così come quando si pensano ai vari 41 bis o altre sicurezze, insomma molti 41 bis tendenzialmente saranno in Sardegna, spesso appunto non solo in Sardegna, ma in Sardegna in alcune zone assolutamente isolate della Sardegna, dove i familiari dei detenuti faranno una fatica tremenda anche solo andare a visitarli e sì, trovarli. Certo, perché si parla molto della spazialità interna del carcere, che è dovuta appunto alla differenziazione di cui abbiamo parlato, si parla un po' meno invece delle geografie sul territorio nazionale del carcere, di come organizzarle a seconda della distanza dalla città principale. È una maniera per separare ancora di più la popolazione carceraria dal sistema degli affetti e anche dalla possibilità, come dicevi tu, che emergano le notizie di che cosa accade al suo interno. Sì, tra l'altro la Sardegna, tra strutture detentive varie, carcere, CPR, colonie penali, è la regione che ne ha di più materialmente, che ha più luoghi di detenzione in assoluto. Una colonia penale. Noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, ti ringraziamo tantissimo perché il tuo contributo è stato veramente molto molto valido e speriamo di risentirci. Il prossimo audio è stato gravato durante la ultima Tattoo Circus che si è tenuto qui in Turin, in un collegamento telefonico per presentare le iniziative di lucha in solidarietà con Alfredo Cospito. Alfredo Cospito sigue in regime detentivo de 41 bis, che è un regime di aislamento e di tortura. Ya son 4 anni. Ha avuto una larga huelga de hambre un par de años atrás y con relativa lucha fuera de las cárceles para sostenerle, y ahora van a pedir que se le renove este régimen. Vamos a escuchar el contenido de esta llamada telefónica con un compañero de la caja de apoyo a los detenidos, la caja La Lima de Roma, donde hay el invito a participar a una temporada de lucha en solidaridad con Alfredo y contra el 41 bis, y a una asamblea pública que se tendrá el 10 de abril a Roma, y a una manifestación nacional que se tendrá el 18 de abril. Per chi volesse prenderli e leggerli. E allora, prima di lasciargli la parola, che appunto per farci dire due cose in più, magari faccio una veloce panoramica, se ci fosse bisogno, su quello che 3 anni fa è stata un po' la mobilitazione al fianco di Alfredo, che scelse di iniziare uno sciopero della fame quando era il 2022, quando dal circuito di alta sicurezza di AS2, in cui era rinchiuso da una decina d'anni, venne messo in regime di 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari, dove è tuttora rinchiuso, e contemporaneamente anche messo a rischio di condanna di ergastolo ostativo. E quindi Alfredo inizia questo lungo sciopero della fame e fuori prende vita un grande movimento di solidarietà in Italia e non solo, e anche fuori dall'Italia nei suoi confronti, e più in generale contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Credo che si possa dire che si sia trattato della più grande mobilitazione contro il 41 bis degli ultimi tempi. Alcune si ricorderanno magari anche la campagna Pagine contro la tortura, ma più di 10 anni fa, insomma, sicuramente è stata una delle più grandi mobilitazioni contro il 41 bis. E anche la prima mobilitazione contro il governo Meloni, che era da poco entrato in carica. Ci sono state appunto manifestazioni in tutta Italia, qui magari ricordiamo a Torino i diversi momenti di piazza in solidarietà ad Alfredo e contro il 41 bis, uno su tutti il corteo del 4 marzo che vede diverse decine di persone adesso sotto processo e, per devastazione e saccheggio e altri reati. Stessa cosa a Milano anche, dove alcuni compagni e compagne sono già stati giudicati in primo grado e hanno ricevuto anche condanne piuttosto alte per un altro grande corteo che si tenne sempre in quel periodo. E appunto durante la parte avanzata dello sciopero della fame di Alfredo. Questi processi, altre indagini aperte in Italia per varie manifestazioni, in quel periodo ci fanno vedere la volontà anche del governo sicuramente, no, di colpire chi scese in strada a supporto di Alfredo Cospito, ma in generale mettere a tacere forme di contestazione, manifestazione, comunque opposizione a questo governo. Un dato di fatto comunque appunto è che l'esperienza della mobilitazione di allora ci ha portato a lottare nelle strade in tanti modi differenti e a distanza di 4 anni si torna a parlare di 41 bis e a riscendere in strada anche cogliendo e creando tutte le possibili occasioni, e una sarà appunto questo corteo il 18 a Roma, di cui magari ci puoi dire qualcosa in più tu. Sì, ok. Allora, ciao a tutti e tutte, grazie intanto per stare là ad ascoltare qualcosa. Allora, più o meno è stato detto la gran parte di ciò che c'è da dire, non aggiungerò granché. Intanto inizio con qualche dettaglio in più che non è presente ancora sulla locandina, penso che sta girando là, ovvero che il corteo si terrà a Roma il 18 aprile, inizierà alle ore 18 a Piazza Trilussa, in zona centrale di Roma, a Trastevere. Allora, perché quella zona? Quella zona perché intanto è vicina al Ministero di Grazia e Giustizia, che è il diretto responsabile delle sorti di Alfredo e dell'attuale situazione di Alfredo, e perché è stato anche durante la mobilitazione, la grande mobilitazione che c'è stata, è stato un po' un luogo dove spesso ci si è ritrovati, un luogo che ha ospitato vari momenti di quella mobilitazione, più o meno riusciti, più o meno entusiasmanti, però insomma, visto che questa mobilitazione parte dai compagni e dalle compagne che a cavallo fra il 2022 e il 2023 si sono spesi moltissimo e si sono anche conosciuti, hanno fatto esperienze insieme durante quella mobilitazione, ci è sembrato che potesse, che avesse, che desse un segno di continuità con ciò che è accaduto. Detto questo, siamo ben consapevoli che la mobilitazione, che principalmente è stato il frutto della forza e del coraggio di Alfredo, che, come si diceva, ha portato avanti uno sciopero della fame al limite dell'umano, è riuscito a mobilitare, non assumerà quella forza e quelle dimensioni. Il ragionamento che c'è stato dietro è stato un po' quello di provare perlomeno a riparlare della situazione che sta passando, di ciò che accadrà, ovvero del, possiamo dire sicuro, ma non lo diciamo così, però del molto probabile rinnovo del 41 bis ad Alfredo. Per cui ecco, una manifestazione durante la quale non si pensa e non si giocherà il tutto per tutto in alcuna maniera, ma è un po' un pretesto perché da oggi, appunto, dalla settimana scorsa a quel momento, si provi a riparlare di Alfredo, si provi a far riparlare di Alfredo, a rinnescare un po' quella tensione che ha attraversato una dignitosa fetta della società all'epoca e l'ha portata ad esporsi, ha portata a scendere in strada, a discuterne, a litigare, a portare molto più larga del solito giro di compagni e compagni, di circuiti militanti ai quali spesso siamo stati abituati fino negli ultimi anni. Quindi ecco, una manifestazione pretesto sperando che suggerisca e stimoli un po' la possibilità, l'iniziativa, il parlare. Ho visto come stiamo vedendo, ci sono varie iniziative in giro per l'Italia che cominciano a ritirare fuori l'argomento, a riparlare di Alfredo, perché comunque ecco non siamo sicuramente gli unici che parlano. Chi ha lanciato questa manifestazione non è sicuramente l'unico che ha a cuore le condizioni carcerarie di Alfredo. Un'altra cosa che ci teniamo, così è molto in breve, che ci teniamo aggiungere, che diciamo, in quel breve testo che sul volantino che sta girando, non abbiamo pensato di non approfondire troppo il contesto, di non sbilanciarsi troppo sul contesto, su ciò che stiamo vivendo, non perché non pensiamo che la situazione di Alfredo, l'esistenza del 41 bis, eccetera, siano fatti specifici che non riguardano il mondo circostanze, tutt'altro. Anzi, pensiamo proprio che, diciamo, la durezza e gli scenari che stiamo vivendo e che ci si presentano, il futuro che verrà, non farà altro che confermare e rendere sempre più evidente la tendenza e le trasformazioni profonde che questa società dovrà affrontare e sta già affrontando, a partire principalmente dalla guerra e tutte le implicazioni che questa avrà e sta avendo dal punto di vista della politica interna, nel senso repressivo, che è quello più evidente, ma fino agli aspetti, insomma, è per tutti chiaro la trasformazione culturale che stiamo vivendo. Quindi ecco, pensiamo che parlare di Alfredo adesso non sia un esercizio puramente etico, oppure né tantomeno autoreferenziale, ma parlare adesso di Alfredo più che mai e sempre di più pensiamo che sia comprensibile a molte persone all'interno di una visione più ampia della fase e di ciò che ci circonda. E, detto questo un po' è stato cercato di esprimere attraverso questo gioco fra carcere e prigione, prigioni e carceri. Ecco, se le carceri, insomma, non siamo fra i sostenitori dei carceri, è evidente che adesso le carceri in una situazione di guerra stanno diventando sempre più simili a quello che nel linguaggio comune o nell'immaginario che abbiamo sono delle prigioni di guerra, e i detenuti sono dei prigionieri di una guerra, di un conflitto sempre più evidente e feroce. Quindi come lo è Alfredo, come lo è sempre stato Alfredo e i compagni e le compagne che si trovano dietro le sbarre, e questa cosa pensiamo sarà sempre più evidente. Prima è stata citata la mobilitazione per la Palestina, eccetera. Il riferimento sulla locandina ai prigionieri palestinesi attualmente nelle carceri ovviamente non è casuale e rientra un po' in questo discorso. Quindi ecco, Anan, Tarek, Salem sono le conferme, le ennesime conferme che in una situazione di crisi e di conflitto sempre più evidente interno ed esterno, lo Stato ha tutto l'interesse a fare prigionieri piuttosto che abbandonando qualsiasi velleità rieducativa, come se il carcere l'avesse mai avuto, ma non devono neanche nasconderlo, non devono neanche più nasconderlo e celarlo dietro la retorica democratica. E, so, più o meno ditemi. Beh, sì. Ma no, mi sembra che hai ben argomentato tutto quello che in breve siete già riusciti comunque a scrivere nel testo dell'indizione, a collegare, unire tutte le, poi appunto partendo dall'esperienza singola di Alfredo, collegandola con tutto quello che hai appena detto. Quindi se non ci sono domande qui delle persone presenti o comunque qualche commento, no, io direi che ribadiamo un punto l'appuntamento, e poi sicuramente è un un corteo, un appuntamento appunto che verrà pubblicizzato, si passerà anche ovviamente in radio e in altri canali. E se vuoi appunto ridirci solo un attimo le questioni tecniche, il 18 aprile a Roma c'è anche un'assemblea pubblica prima, per magari più un contesto cittadino, però se vuoi solamente ripetere l'appuntamento, e da qui è tutto. Eh sì, allora mi ero scordato prima, il 10 aprile si terrà a Roma un appuntamento pubblico dove si presenterà il corteo, che sarà sempre alle ore 18 a Piazza Nuccitelli, per chi si trovasse in Roma pensa di trovarsi a Roma in quel periodo, e sarà un po' la circostanza dove parlarne pubblicamente al di fuori delle iniziative, delle occasioni di propaganda che ci saranno state da già quel momento. E il 18, sì, sarà il 18 alle 18, alle ore 18 a Piazza Trilussa a Trastevere. Una cosa che mi sono scordato, che l'intenzione, anche la volontà che ci sta, che andrà calibrata un po' in base all'attenzione, alla partecipazione, al coinvolgimento nella costruzione di questa giornata da qui al 18 aprile, è quella di voler creare tutta una serie di appuntamenti cittadini nella stessa giornata, che si possono chiamare preconcentramenti, iniziative dislocate, eccetera, per portare insomma più contenuto e più significato a quella giornata. L'agibilità delle piazze oggi sappiamo non è né scontata né tantomeno garantita, e quindi una ragione in più per cui non vogliamo che l'appuntamento del 18 diventi non pensiamo che possa essere il momento in cui giocarsi tutto, tutt'altro, nel senso deve andrà bene per arrivarci ci sarà stato un po' di creatività e un po' di movimento prima. E ecco, però poi sui dettagli maggiori, sui vari appuntamenti della giornata e delle giornate precedenti, speriamo di riuscire a aggiorneremo man mano le realtà, insomma, cittadine e non, perché ci sarà anche presumibilmente qualche giorno prima un appuntamento fuori dal ministero, insomma è un mese tutto ancora da costruire. Siempre desde Radio Blackout, Torino, Italia, siempre en este programa para el Cadenazo, en solidaridad con Mónica Caballero y con todas las presas y los presos del mundo. Vamos terminando con el texto del folleto de invitación a la manifestación del 18 de abril, de que hemos escuchado hablar en el último audio programado. Voy allá con la lectura del texto del folleto. Esas cárceles son prisiones de guerra. Alfredo fuera del 41 bis. La vida de Alfredo Cospito vuelve a estar en mano del ministro de Justicia y por lo tanto del gobierno, ya que sus primeros 4 años bajo el régimen de 41 bis expiran a principio de mayo. A partir de ese momento el plazo se renovará cada 2 años. La historia de Alfredo ahora es conocida por amplios sectores de la sociedad, que han tomado conciencia de la violencia del régimen del 41 bis gracias a la huelga de hambre que Alfredo llevó a cabo durante más de 108 días entre 2022 y 2023, y a la fuerte movilización nacional y internacional en su solidaridad. Las condiciones de detención de Alfredo han empeorado. No puede recibir ningún tipo de libro, ni siquiera los que no tienen contenido político. La censura a sus cartas ha aumentado y ni siquiera puede conseguir harina para hacer pan. Este nuevo ensañamiento es claramente una represalia tras la condena del secretario de justicia del Mastro por relevar secretos oficiales. El subsecretario de justicia había remitido a Donzelli, líder del partido gobernante, documentos del Departamento de la Administración Penitenciaria sobre conversaciones que Alfredo había mantenido con otros reclusos de su sección durante el tiempo de ejercicio. La solidaridad con Alfredo no ha sido solo una lucha por él. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, un anarquista bajo el régimen de 41 bis hoy en día es una advertencia para todos, ya que esta extensión de dicho régimen penitenciario representa uno de los puntos más avanzados de la actual fase reaccionaria. La persecución contra él, de hecho, se deriva principalmente del deseo de acabar con cualquier forma de disidencia, desde la radical hasta la permitida. El estado permanente de preparación para la guerra en el que nos hemos visto inmersos durante los últimos 4 años es el resultado de un ajuste de la agenda y la propaganda del Estado. El autoritarismo, los recortes en el gasto público, la militarización de la sociedad, la guerra contra los pobres, el patriarcado, las leyes racistas, la detención administrativa, pero sobre todo la feroz celebración de todo esto representa el marco económico y cultural al que la población se está acostumbrando. Los pobres son individuos sobrantes que deben ser confinados fuera del consenso social. Los disidentes son enemigos a combatir. El conflicto social es terrorismo. El imperativo es ley y orden o prisión. Y por eso es apropiado considerar las prisiones como verdaderas prisiones de guerra y a las detenidas como verdaderas prisioneras de guerra que, si bien aún no han detonado bombas en este rincón del mundo, impone la necesidad preventiva de cerrar filas para desalentar y desincentivar no solo el conflicto social, sino cualquier forma de oposición. Esas cárceles son las de Anan, condenado a 5 años y 6 meses por ser palestino y participar en la resistencia contra la ocupación de Israel. Son las prisiones de Tarek Dridi, condenado por delito de resistencia durante la manifestación pro-palestina del 5 de octubre del 2024. Son las prisiones de Ahmad Salem, recluido en un centro de alta seguridad únicamente por haber visto vídeos que se podían encontrar en Internet. Por Alfredo. Por la abolición del artículo régimen 41 bis, por todas las presas, por los desertores de todas las guerras, por el desmantelamiento del aparato militar y de la ideología militarista y patriarcal, por todas aquellas reprimidas, por actuar en solidaridad con Palestina, hacemos un llamamiento a quienes se manifestaron hace 3 años, a ese sector de la sociedad que ha salido a las calles por Palestina en los últimos años, a quien no se ha acostumbrado a guardar silencios ante la injusticia. Por esto, el 10 de abril, Asamblea Pública en Roma. Estaremos en las calles de Roma el 18 de abril por Alfredo. Alfredo fuera del 41 bis. Libertad para todas. Dimmi come si fa a restare fedeli, a servire uno stato, il burattino della NATO. USA, tu sai che è la cosa giusta, la minaccia anarchica russa, questa emergenza è una fuffa. Ma la repressione interna deve essere violenta, accelerare 41 bis, ai ai ai ai ai. La guerra globale è una merce che vale, un affare per ricchi. Ti piace esercitare violenza su tutti i popoli, colonizzar villaggi e le metropoli. La NATO e l'UE, il governo che già c'è, ci dicono di sì e adesso ci lasciate fare. Le armi, made in Italy. La mafia, made in Italy. Le stragi, made in Italy. La tortura, made in Italy. Sei un bravo militare e anche un infame. Infame. Gli ordini sai rispettare. Morti in carcere in mare. Oh, oh. Puoi deprimere i popoli. Questo mondo monopoli. Giochi alla guerra tra popoli. Stato assassino, siete voi colpevoli. Stragi. Ne faccio. Guerre. Mi compiaccio. Noi. Io vi schiaccio. Okay. In prigione c'è spazio. Ma